Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera a tutti, benvenuti all'interno della programmazione serale di Blue Radio Veneto. Questa è Blue Time Live, sono le 21 e 6 minuti primi di oggi martedì 22 gennaio del 2013. Buona serata da parte di Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me la trasmissione di questo martedì, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, in questo martedì un ospite che aspettavamo da tempo è ritornato a trovarci dopo una lunga pausa per quanto riguarda il non vederci e il non sentirci, ma molto breve se consideriamo il tragitto tra un disco e l'altro. Nel 2011 sfornava I Sonnambuli, torna per il 2012 con un nuovo progetto che si intitola Togliamoci il pensiero, e diamo il benvenuto al cantautore emiliano Giancarlo Figgeri. Buonasera Giancarlo. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto, ho fatto buon viaggio dalla tua benemata Reggio Emilia? Sì, viaggio buonissimo, tempo eccellente, pioveva pochino, mi sono anche fermato a mangiare qualcosa in autogrill. Sì, quindi lusso. Tutto a posto. Il famoso rustichello. No, ho trovato un autogrill dove ci si sedeva e si prendevano allora coltello e forchetta. Qualcosa sì, di più lusso che non esatto. Normale autogrill. Allora, sì, si diceva prima in presentazione, dovevamo vederci ancora l'anno scorso, ma la neve non l'ha permesso. No, l'anno scorso è venuta, sì, c'è stata la nevicata più grande degli ultimi 7000 anni e non ci si riusciva a muovere. Allora eravamo nel pieno periodo dell'era glaciale, per esatto. Cui ecco, abbiamo solo avuto modo di ascoltare qualche pezzo dei Sonnambuli, però non c'è il tempo per ascoltare I Sonnambuli perché subito c'è un Togliamoci il pensiero. Quest'album 2012 è uscito il 22 ottobre del 2012 e adesso il tempo di inserirti all'interno della programmazione serale e finalmente sei qui. Esatto. Non siamo stati i primissimi, ma voglio dire, ma ci siamo riusciti alla fine. L'importante non è arrivare primi, ma come dicevo, non mi ricordo chi, l'importante non è vincere, ma ritirare il premio. Ma ritirare il premio. Beh, ecco qua. Allora, ritira il premio Giancarlo Frigeri con questo album che viene a presentarci a Blue Time Live, Togliamoci il pensiero. Allora, innanzitutto da dove partiamo? Questo togliersi il pensiero, perché secondo te c'è tanta gente, Giancarlo, che ha pensieri o pensieri distorti o pensieri malsani che forse farebbe meglio non pensare. Com'è questo togliamoci il pensiero? Ma mi piaceva molto il fatto che il titolo si potesse interpretare in due modi. Cioè, generalmente togliamoci il pensiero è una frase che si dice quando magari si procrastina, pertanto un impegno che non si intende affrontare, poi si arriva ad affrontarlo così magari alla fine, giusto, sì, giusto appunto per togliersi il pensiero. Allo stesso tempo c'era la possibilità di interpretarlo nella maniera di non pensiamo più e quindi lasciamoci andare in mezzo alla corrente, diventiamo massa totalmente e non usiamo più la testa. Mi piaceva queste due chiavi di lettura, sostanzialmente direi che insomma si possa intendere in tutti e due i modi, d'altra parte insomma la verità non è mai una e quindi ci si può tranquillamente sbizzarrire a questo interno. Poi penso che dopo, andando avanti anche con la trasmissione, per chi resta ad ascoltare attraverso i testi dei pezzi si potrà capire qualcosa di più. Rispetto ai Sonnambuli c'è una variazione di ritmo, c'è molto più rockettaro questo disco rispetto ai Sonnambuli, che era più cantautorale nel senso positivo del termine, secondo me. Sì, qui c'è più... C'è più chitarra. Chitarra, basso, batteria, ecco, cioè, la batteria c'è quasi sempre, se non sempre addirittura. Mm. E sì, in generale il disco è un po' più mosso. Sì, è un po' più diretto, possiamo dire, su certe cose. È uscito così. È nato così. Allora, ce lo teniamo. Visto che è un disco diretto, perché non ascoltare direttamente il primo pezzo, tanto per concentrarci? Hai fatto un gancio che neanche a 105. Vabbè, noi siamo 106. Ecco. Allora, Blue Radio Veneto, all'interno di Blue Time Live, Giancarlo Frigieri con noi fino alle 22.30 per presentarci il suo ultimo lavoro che si intitola Togliamoci il pensiero, e noi diamo subito ascolto alla prima traccia che si intitola La Polisportiva. Sentite qua come canta Giancarlo Frigieri. Blue Time, Blue Time. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, ancora buona serata a tutti. Questa è Blue Time Live, naturalmente la musica in acustico per presentazione di nuovi album, di nuovi artisti, di artisti già conosciuti. E in questa serata abbiamo il piacere e l'onore di ospitare per la seconda volta come solista e per la terza volta con band annessa Giancarlo Frigeri, e spero di avere avuto un buon ricordo. Forse erano anche quattro volte, forse Giancarlo. La quarta, sì. Forse la quarta, direi di sì, forse la quarta. No, insomma, beh, sempre una buona partecipazione. Sì. Ah, io sono contento. Se no mica tornato. Benissimo. Allora, la polisportiva, Giancarlo, questo brano assolutamente folk rock con questa chitarra greve in principio, è la storia di un incontro apparentemente normale, però forse criticato dalla gente che sta intorno, e poi ancora dove si dice che i giovedì della polisportiva non sono proprio così male, facendo anche un riferimento importante nel tempo. Era il 1966, quando andava di moda Winchester Cathedral, quel brano fischiettato e con tanto di megafono dei New Vaudeville, si chiamava quel gruppo. Perfetto, no? Grande. No, nel senso... Come mai hai tirato fuori proprio questa canzone che era finita forse... Nel dimenticatoio. Sì. Nel senso che pensavo di utilizzare un brano per dire le prime note di e utilizzare il nome di un pezzo. Inizialmente avevo pensato a un classico pezzo di Liscio, poi ho voluto evidenziare il fatto che ormai nelle polisportive dove si balla al pomeriggio nei ritrovi della terza età, in realtà avanzando il tempo ci sono anche cose anglofone ormai, e quindi ho pensato a un motivetto che fosse appunto che si potesse far risalire a una sessantina di anni fa. Ecco, io adesso non lo saprei rifischiettare, però i più curiosi possono darsi... Eccolo qua. Ascoltiamo, sì. Così. Sì, poi c'era naturalmente il proseguimento anche col megafono. Sì, poi Winchester Cathedral, facciamo una roba del genere. E fra l'altro, sì. Se ci fai caso, quando dice le prime note di Winchester Cathedral, c'è un pianoforte che fa una melodia appena cambiata, ho dovuto pagare diritti d'autore. Ah, bene, sì, perfetto. In effetti si sente nel sottofondo, proprio nella prima parte della canzone, che c'è questo. Non fa ma fa cambia la scala, fa un peso. Si chiami canone cancrizzante. Adesso sì. Sto studiando musica in queste settimane e quindi ho imparato queste cose qua. Sì. E, che appunto ricorda come melodia, ma così in questo modo non ho dovuto versare l'obolo. E, agli autori di Winchester Cathedral. Sì, perché altrimenti era inevitabile dover citando, era giustamente pagare appunto l'obolo. L'obolo. Però gli hai fatto comunque una buona pubblicità, perché chi è attento ascoltatore va. Sì, magari. Poi mi piaceva anche il fatto che uno magari si accorgesse della cosa, pur insomma, che ci fosse tanti livelli d'ascolto. Mi piace che nei miei dischi ci siano tanti livelli d'ascolto. Che se uno si attacca lì, appunto, nota cose. Infatti, non so se noti la mia logorrea dovuta all'entusiasmo, perché tu hai citato questa cosa di Winchester Cathedral. Comunque riprendiamo, la polisportiva è un angolino, un classico angolino del dopo gioventù, si può dire, perché ma apparentemente... Sì, no, della vecchiaia, io userei questa parola che non usa più nessuno, che è vecchio, che è una condizione non meravigliosa, perché appunto l'età porta inevitabilmente a degli acciacchi fisici, però allo stesso tempo la vecchiaia è intanto è quello al quale aspiriamo tutti ad arrivare, nel senso che hai voglia di dire, come diceva Neil Young, è meglio bruciare che spegnersi lentamente, dipende quanto lentamente, nel senso. Insomma, che ecco, sfarfugliare un po', sfregolare un po' sul fornello a fuoco lento delle volte è meglio che bruciare in una vampata, no? E ragion per cui, insomma, secondo me quella narrata nella polisportiva è un po' la fine che potremo fare in tanti di noi, e tutto sommato è una fine, mi sembra, dignitosa. E poi è quello che è appunto si direbbe magari uno spaccato di quella che è ad esempio in Emilia una realtà presentissima, quella delle polisportive che fanno ballare nel pomeriggio e dove si trovano scene di questo tipo. Cioè prima giocano a bocce probabilmente e dopo cominciano a ballare. No, ci sono proprio le serate, cioè serate anzi non tanto le serate quanto i pomeriggi danzanti. Nella fattispecie l'idea della canzone è nata un giorno che dovevo suonare a un festival a Carpi che si teneva in una polisportiva la sera e sono arrivato lì al pomeriggio per vicissitudini varie e al pomeriggio c'era questa appunto giornata danzante. E le scene che ci sono descritte lì sono ovviamente rielaborate, un po' riadattate a quello a quel momento che hai visto, a quello che volevo dire io magari a diverse scelte, quindi un po' ho fatto un insalatone, però sono tutte cose più o meno viste dal vivo quel pomeriggio lì. Perché folk rock allora? Questo pezzo è abbastanza folk rock? Rock non molto vivace, un folk rock? Beh, è un moderato. Moderato, moderato. Perché la terza età vuole moderazione. A proposito di moderato, io Alberto Prisco, che è il direttore artistico del programma che cura tutti i live, lo abbiamo scelto, è un mesetto che va in onda perché a noi piace molto e quindi abbiamo scelto. Perché è iniziato ad avere una certa età. Esattamente, per quello. Certo, io invece sono un po' più indietro, ancora di anni, per cui va bene. Allora, Giancarlo Frigeri in questa serata per presentarci il suo lavoro, Togliamoci il pensiero, si intitola. E allora, cosa possiamo ascoltare adesso dal tuo bel repertorio anche di questa serata, Giancarlo? Ma allora, visto che abbiamo parlato anche di fare qualcosa dal vivo... Sì. Direi che sentiamo proprio Togliamoci il pensiero. Va bene, tra l'altro io di solito dal vivo lo dico, sono chitarra, voce e diverse cose a pedale elettroniche. Questa sera, essendo in uno studio radiofonico, la facciamo proprio alla vecchia, chitarra e voce, come suonare per strada. Benissimo, allora... Quindi, versioni scarne, ma spero che vengano decentemente. Allora dai, facciamo questa, così ci togliamo il pensiero. Esatto. Togliamoci il pensiero, leviamolo davvero, vivremo in modo più leggero, senza pensarci più. Togliamoci il pensiero, guarda com'è ridotto, lo abbiamo usato male, adesso come bambini l'abbiamo rotto. Togliamoci il pensiero, il clima è quello giusto. Rimandiamo il nostro incontro alle ultime giornate, come coi compiti in estate. E se sarà uno scontro, allora tanto meglio. Combatteremo e vinceremo, anche a costo della morte, è la legge del più forte. Il cuore ormai oltre l'ostacolo, l'estate più calda del secolo, quell'uomo che più parla al paese più si rende ridicolo, un santo, il profeta del vicolo, avanti tutti insieme seguitelo, ci renderà liberi, certo che non c'è pericolo. Togliamoci il pensiero, un bel vitello d'oro, qualcuno da adorare a cui poter dire bravo, basta che pozzi di nuovo. Chiunque può andar bene, vogliamo delegare, perché per venderci noi forse non ci crederai, siamo disposti a pagare. ride in saldo sopra gli scaffali, paghi due concerti e ne prendi tre. Filosofi, guru, Santonius e Getta come le cialde del caffè. Moltitudini in piazza si indignano, vogliono una nuova società. Cani senza guinzaglio, in cerca di un padrone che prima o poi li adotterà. Perché niente in fondo cambi davvero. Togliamoci il pensiero. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Togliamoci il pensiero, è il titolo dell'ultimo CD, l'ultimo lavoro di Giancarlo Frigeri, ma è anche la canzone che ci siamo ascoltati qui in versione acustica assieme a Giancarlo Frigeri per l'appunto. Allora, un folk rock con l'armonica per raccontare la storia immateriale del pensiero, così utilizzato come oggetto molto delicato che può sì renderci liberi, ma con un'avvertenza che possiamo anche romperlo, qual è il pensiero molto fragile. E se niente si deve cambiare, vabbè, togliamoci il pensiero. Sì, diciamo che può essere uno degli aspetti toccati dal pezzo, sì. Poi insomma, vabbè, si può andare avanti a parlarne per ore, direi, tutto sommato. C'è anche questo accenno, secondo me, io ho scritto questo pezzo perché questo pezzo l'ho scritto, ti dico, a luglio 2011, e già allora sentivo quella che secondo me anche adesso c'è molto e si rifletterà. Sì, ok, parlo qua perché tendevo a voler parlare qui, perché chiedo scusa a quelli che non stanno vedendo questo dialogo e quindi pensano che io mi sia rincoglionito. Stavamo scegliendo il microfono, ecco, nel senso, no, perché sentono che mi tronco il discorso a metà, magari dicono si sta facendo uno shampoo, no. Poi di Gaber, mi sono agitato, parlavamo di Gaber. Dicevamo, no, c'è anche al momento in cui ho scritto questa canzone qui, che era intorno a luglio 2011, sentivo molto questa, la chiamano voglia di novità. C'è ogni tot anni una certa voglia di novità, appunto qualcuno al quale voler delegare basta che puzzi di nuovo, come dice la canzone. E questa voglia di novità, appunto, mi sembra sempre che racchiude in sé molta fretta, e la fretta spesso è purtroppo cattiva consigliera. E appunto mi sembra che tutta questa voglia di cambiamento in realtà sia voglia di delegare a qualcuno che pensi per noi, perché niente in fondo poi alla fine cambi davvero. E quindi tutti questi nuovi personaggi che appunto si indignano dal più alto al più basso siano in realtà quei cosiddetti cani senza guinzaglio che stanno andando a cercare un padrone che li adotti, che gli dia la loro ciotola di minestra per poi appunto trovare una casa al caldo. A proposito, voglia di novità, questo è il tuo primo disco non autoprodotto? Sì, ma in realtà, non è che sia cambiato tanto. Perché di solito tu produci assolutamente, vendi, distribuisci, fai tutto a te. Tutto io. E l'hai sempre detto e l'hai sempre ribadito in tante interviste. Questa volta il discorso dell'autoproduzione, intanto le proprie convinzioni di tanto in tanto vanno verificate. Okay. E vanno verificate secondo il metodo che secondo me è il metodo scientifico prevede che quando tu vuoi verificare una tua teoria devi provare a fare il contrario e vedere se riesce. Giusto. Se il contrario non riesce, allora la tua teoria è ancora valida. È questo che la scienza funziona così. E anch'io stavolta cosa ho detto? Faccio una cosa per vedere se la mia teoria è valida, quindi faccio il contrario, vale a dire mi faccio produrre. Lavoro con un'etichetta. In realtà non cambia molto, nel senso che comunque abbiamo messo un marchio sopra il disco, che è quello della Control Records di Davide Tosques di Torino. Che conosciamo, prezzo. Perché Davide è un amico col quale da tanto tempo scambiamo così impressioni, oltre che cose pratiche, tipo non so, indirizzi di locali, contatti, eccetera, certo, eccetera, al quale ci diamo una mano. Lui ha questa etichetta qui e mi ha detto: mettiamo sul prossimo disco tuo il nostro marchio. E io gli ho detto: va bene. Poi in realtà il disco continuo a pagarmelo io, cioè non cambia poi. Però il marchio, cioè, è quello di Davide. Il marchio è quello di Davide, che è poi quello che vado a dire da tanto tempo, cioè che in pratica alla fine avere un'etichetta o non avere un'etichetta, insomma, certi legami non hanno bisogno, ecco, di un marchio in cima al disco. Questa volta l'abbiamo messo un po' per farci, diciamo, un favore l'uno con l'altro, ecco. Però non c'è non nessun, cambia nulla, non c'è nessun contratto, tanto per dirne uno. Sei sempre libero, è stata una stretta di mano, certo. Quindi sei assolutamente libero di continuare il tuo discorso. Assolutamente. Sì, come dovrebbe essere fatto sempre su tutta la musica, purtroppo sappiamo benissimo che non è così. Non basta una stretta di mano, perché anche... I contratti d'altra parte sono contratti, nel senso che delle volte è meglio che non basti una stretta di mano, perché ci sono dei soggetti con i quali una stretta di mano non è sufficiente. E poi per questo disco qui c'è anche... grazie appunto all'apporto di Davide, che ha fatto da tramite, c'è invece il lavoro di ufficio stampa che fa Govind Kurana della New Model Label, che devo dire è di una certa utilità, nel senso che mi ha risparmiato la fatica di, non so, imbustare 100-150 copie con le relative presentazioni, tutte cose che si è collato lui in cambio di un contratto di edizioni, e che devo dire mi ha soddisfatto molto da questo punto di vista, e quindi penso che sarà un legame che continuerà. Non vedo perché non debba continuare. Certamente. Benissimo, continuiamo con l'ascolto allora del disco di Giancarlo Frigeri, da Togliamoci il pensiero, questo è il titolo del suo ultimo lavoro. Ci ascoltiamo Diversi dagli altri. Live Blue Time. Blue Time Live. L'incenso che dentro alle chiese, signore, vi ha fatto quasi sempre svenire, ma forse è una scusa che avete per stare lontano dal prete. D'altronde chi dice che il sesso è peccato e che toccarsi fa male è un povero disadattato, magari un malato mentale. Immagino le risa di scherno se fosse uno dei vostri vicini. Invece si veste di nero e automaticamente gli mandate i bambini. Mi sembra una cosa da matti fare le cose perché le fanno tutti. La colpa poi va alle famiglie, che è sempre un bel modo di dar colpe alla moglie. E quelli che invocano pene esemplari per tutto ciò che è in Vaticano si offrono al primo altro Dio, basta che venga da lontano. Profumo d'incenso, parole il cui senso mi sfugge, la pecora che cambia gregge. Un'elevazione modesta ma un po' originale, la chiamano gente normale, che mangia biologico, che legge Repubblica, fatica a gestire la propria inutilità, davanti a ogni novità prevede catastrofi, che è razionalista, poi legge gli oroscopi, che vota convinta, che viaggia sicura, che piena fiducia nella magistratura, che veste di nuovo ma è sempre la stessa, che una massa critica è pur sempre massa. Gli uomini sanno che non cambieranno mai niente col proprio lavoro, e vanno cercando di essere sempre diversi dagli altri, ma uguali tra loro. Ci sono poi anche altre chiese, signore, si scelga quella che più le piace, chi falce e martello, chi questo, chi quello, magari anche il busto del duce. Si sceglie un bel simbolo di aggregazione, si finge anche di andarne fieri, si prova a pensare al futuro spacciando ideali di ieri. Qualche pennellata di bianco, il genio si carica a molla, tra applausi di gente alla moda, che pensa con il copia incolla e che parla pulito ma in maniera oscena, che pranza veloce, che apri cena, che sa già in anticipo ciò che dirai, che va a messa a Natale perché non si sa mai, che non vuole niente di chimico intorno, poi fuma un pacchetto di Camel al giorno, che anche se ha torto non cambia mai parte, che sente il bisogno di un segnale forte, che vuole la pace o diventa cattiva, che l'India, che Gandhi, che Vandana Shiva, che ha sempre ragione anche quando si sbaglia, che a questi mondiali non tifera Italia, che canta impegnato, che parla d'amore, che scrive canzoni tutte in la minore, che quando protesta si veste in costume, che si dice anarchica e lavora in comune. La voce dell'uomo comincia da sola, poi parte alla ricerca di un coro, e tutti che vogliono sempre sentirsi diversi dagli altri, ma uguali tra loro. Ambientale dei tuoi sentimenti è peggiore di quello dell'oro, se tutti qui vogliono essere sempre diversi dagli altri, ma uguali tra loro. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo sentito anche il sottofondo musicale, forse cos'era? Armonica mista a chitarra? Sì, ho fatto un... Ah, Blu Time Live. Eh sì, potremmo assumerlo immediatamente. Cioè, li faccio dal vivo. Esattamente, gli fai gli stacchetti. Onore, Giancarlo Frigeri qui con noi per Togliamoci il pensiero, il suo ultimo lavoro. Questa canzone ci siamo ascoltati, ha un testo molto particolare, molto lungo, molto delicato ad ascoltarlo frase per frase, è anche davvero divertente. Fortuna che Giancarlo ci mette a disposizione all'interno del suo CD anche questo libricino. Sì, perché è proprio un CD da sfogliare in questo caso. Sì, abbiamo grazie anche a Davide, che è quello che ha curato la, diciamo, la supervisione della grafica, e alla mia signora Cristina che ha fatto, salutiamo. Che salutiamo ovviamente, certo. Torno presto. No, che ha fatto, sì, come al solito le fotografie, e abbiamo appunto fatto una confezione, insomma, il più lussuoso possibile. Molto elegante, devo dire. Perché in tempi nei quali appunto l'oggetto disco ha praticamente perso di significato ed è ormai un oggetto che appartiene al passato, che abbiamo pensato che chi volesse acquistare un oggetto del genere avesse magari diritto a un oggetto bello da vedere, da toccare, eccetera eccetera. Bene. Senza dover scendere proprio nel feticismo da vedere, da toccare, sembra una cosa un po'... No, è fatto bene. Assolutamente, assolutamente ha fatto bene, e difatti dà anche la possibilità di ascoltare i testi, che sono anche belli poi da rileggere. E questa situazione è anche un po' funky, soprattutto nella parte iniziale, mette un po' di ritmo anche per recitare questa filastrocca senza... Sì, nel ritornello è farla dal vivo è una sofferenza ogni volta, perché non si tira mai fiato, soprattutto il secondo ritornello, che su disco abbiamo fatto in due parti, che poi abbiamo attaccato spudoratamente, e invece dal vivo è necessaria, insomma, è una roba che si riesce, per sì, carità, sì. Però si arriva sempre alla fine. Sì, così. Certo, anche perché mi sembrava una cosa da matti fare le cose perché le fanno tutti, no? Quindi questa, esatto, è una cosa fatta un po' diversa. Sì, esatto, diciamo, delle volte è una cosa da matti anche fare una cosa giusto per essere diversi dagli altri, se vogliamo. Un'immagine tra tutte che mi è rimasta particolarmente in testa è la pecora che cambia gregge, perché c'è tutto un sistema e un controsistema che gira attorno a questa canzone. Beh sì, nel senso adesso vengono toccate in generale, ecco, dovendola dire in linea molto generica perché poi si prendono tanti ambiti, però il principio cardine è proprio la pecora che cambia gregge, nel senso spesso si tende a, cioè, c'è quasi questa esigenza quasi fisica di volere sempre differenziarsi rispetto al gregge, cioè alla massa, e allo stesso tempo di cercare comunque qualcuno che la pensi come noi. E questo fa sì che si tenti, per dirla in due parole, di essere sempre diversi dagli altri, ma di cercarsi uguali tra loro, ecco, che essi, che poi saremmo noi, si cerchino uguali tra loro. E in questo caso qua sei stato tu e Cesare Anceschi, che salutiamo, gli unici due strumentisti all'interno di questa... Sì, lui ha suonato la batteria, io tutto il resto, se mi ricordo bene, perché poi... Sì, mi sembra di leggere che hai suonato circa il basso, le chitarre acustiche, la 6 e 12 corde, quindi poi ancora le chitarre elettriche, la chitarra rovesciate, poi il Moog Fugger, è un sintetizzatore, insomma. Sì, sì, è sempre della stessa famiglia del Moog, no? Quindi sì, esatto, sì. Sempre inventato da Bob Moog. Esatto, sì, è il fratellino piccolo del Moog. Sì, poi ancora pianoforte e tastiera Logan. Sì, la tastiera Logan è una tastiera che fa questo effetto nel ritornello molto balneare, quasi da liscio, da piano bar, che in realtà faceva molto battiato per la linea melodica scelta, sì, secondo noi. Sì. Quelle tastiere che aveva battiato negli anni Ottanta, quelle cose un po' suonate in maggiore. Sì, sì. Ancora i tempi della voce del padrone. Esatto, diciamo, quelle cose così, sì, che hanno quell'effetto un pochino tipo motonave Michelangelo al largo di Riccione. Perfetto. Allora, sempre Blue Time Live, sempre con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara ai microfoni, con noi c'è Giancarlo Frigeri, un altro brano in versione acustica. Giancarlo. Sì, un pezzo che parla di uno dei mali del nostro tempo, nel senso, collegandoci a tante cose che dicevamo prima, cioè la necessità di pensare sempre che si stava così bene una volta e adesso invece, signora mia, va tutto a rotoli, e quindi si tende ad idealizzare il passato facendolo diventare qualcosa di talmente bello che bello non era, e a maledire il futuro e a vivere senza fiducia, che è la cosa peggiore che puoi fare alla tua vita. Questa si chiama la nostalgia. Esatto. Un capanno per gli attrezzi di speranze ormai morte, per costruirti una vita, un alibi perfetto, i testimoni oculari sono pancia e capelli in caduta, un orologio che fermo, così sai sempre l'ora ed è ora di dormire, un momento di pausa, uno di riflessione, e mai il momento di agire. E ti ritrovi a pensare che al suo affetto di madre non riuscirai a sottrarti, come un abbraccio che senti così naturale, catena fatta di miele, e fa vedere al suo mondo com'è bello il suo volto di plastica e cartone, e si dà aria da sante, anche se non si confessa, farà la comunione. La nostalgia è la medicina che il cervello ti prescrive se decide che sei ammalato, e ti permette di non dover fare i conti con quello che sei diventato. E puoi avere amore, basta pagare, e puoi odiare per sentito dire, e puoi sputare tutte le tue sentenze, tanto nessuno ti starà a sentire. E i nostri fossi sono pieni di salti sbagliati, gesti da dimenticare, e che se si stava meglio quando si stava peggio, allora non si può che migliorare. Ci si ricordi di dimenticare, si lasci solo un vaghissimo odore di uomini che non amano il tempo, che non hanno tempo per l'amore. Come gli eroi dei tuoi sogni quando eri bambino, lei ti protegge dal male, è la matita di Dio che fa cessare il maltempo, basta disegnare il sole, il tuo cuscino di piume dentro al letto dei secoli, ma forse non hai capito che chi ripudia il futuro sarà il primo a rimpiangerlo quando sarà passato. La nostalgia va lungo strade che conosci e che per questo sembrano più insicure. Così puoi avere nostalgia di tutto, anche delle dittature. E se alla fine si perdona ogni cosa, la nostalgia poi ti riscrive la storia. È una bugia che fa il doppio lavoro, corta di gambe e pure di memoria. Blue Time Live. Live. Giancarlo Frigeri presente nei nostri studi con chitarra, voce e armonica per presentarci totalmente, togliamoci il pensiero, al suo ultimo lavoro. Questa canzone si intitola La Nostalgia e, come la presentava già Giancarlo prima di farsela ascoltare, era proprio quel vivere il presente sentendosi ormai inadeguato e pensare al passato quando c'era meno pancia e più capelli, come dici, e poi ancora vivendo questa nostalgia come medicina, una nostalgia come amica con cui si va per le strade già conosciute. Sì, esattamente, nel senso che è un rifugio, la nostalgia in realtà consola ed è l'arma che appunto il nostro cervello usa per far sì che non ci sentiamo travolti dalla modernità. Però spesso diventa un alibi, e specialmente quando come oggi usiamo la tecnologia del presente o anche appunto del futuro più prossimo per avere delle overdosi di passato, nel senso che oggi come oggi abbiamo uno schermo che ci consente vita natural durante di vivere negli anni 60 guardando solo i programmi TV degli anni 60, vestendoci come negli anni 60, sentendo addirittura leggendo libri sugli anni 60, andando a ripescarci le cose sugli anni 60, volendo uno oggi riesce proprio a vivere in una bolla spazio-temporale sua. Certo. Questa cosa qui fa sì che ci sia la possibilità appunto di usare il presente, la tecnologia del presente e del futuro per vivere nel passato, e questo mentalmente crea secondo me un grosso cortocircuito del quale prima o poi si pagano le conseguenze, nel senso che il tuo cervello ti presenta il conto. Certo. Un'intervista, cioè praticamente Federico Guglielmi, che tu conosci bene, il tuo mentore da una vita, ha scritto nel novembre dell'anno scorso una bella recensione sul tuo disco. Testuali parole, ha scritto: mai musiche mai così eclettiche e colorate. Il bello, cari ascoltatori del discorso, che il qui presente Giancarlo Frigeri ha controintervistato Federico Guglielmi chiedendo che cosa vuol dire così fresche e colorate. È così, Giancarlo? Sì, no, beh, la cosa è... Com'è la controintervista a un critico? È divertente. Perché è la prima di tante che vorresti fare, ok? Ne ho già fatte 5-6, nel senso che sono partito da... Cioè, allora, è così, dimmi la storia. Esatto. L'idea, intanto, non sono il primo che ce l'ha. L'idea è nata da quello che è il mio braccio destro, insomma, meglio, il mio braccio destro è mia moglie, a dire la verità, però c'ho anche il braccio sinistro, e il mio braccio sinistro è probabilmente il dottor Manicardi, che io citavo anche in una canzone come personaggio di fantasia. In realtà c'è un dottor Manicardi esistente, che è Marco Manicardi, che è quello che gestisce il mio sito internet, che ricordo essere miomarito.it. Esatto. Lo so che fa ridere. Non è così, è la verità. E che insomma, col quale parliamo spesso di tante cose, un po', diciamo, non direi il mio Sandro Luporini, perché alla fine i testi li scrivo io, però sicuramente è una forte fonte di ispirazione su tante cose. E appunto lui, in un blog letterario che gestisce assieme ad altri chiamato Barabba, ha avuto quest'idea dell'intervista alla rovescia, cioè del fatto di non essere lui magari che aveva scritto qualcosa a venire intervistato da qualcuno, ma far sì che fosse chi ha realizzato l'opera che intervistasse il critico. Io ho preso la palla al balzo di questa cosa e l'ho applicata in campo musicale, dove nessuno, almeno io credo in Italia, ancora avesse fatto. Sei stato il primo in assoluto. Esatto. E l'idea è molto semplice: chi ti fa una recensione di solito dopo scatta l'intervista di rito sulla carta stampata. Viviamo in tempi nei quali l'intervista sulla carta stampata non ha più questa importanza e non ha più forse nemmeno, adesso io forse esagero in questo momento a dirlo, però non ha più nemmeno forse una gran ragione di esistere. Se non ti serve a vendere altri dischi. A parte quello, secondo me, più che altro viviamo in un'epoca, oggi abbiamo un paio di social network dove noi riusciamo tranquillamente a mettere nei caratteri necessari le risposte a domande che nessuno ci ha mai fatto. E se tu hai un account di Facebook, tu riesci tranquillamente a scrivere la risposta più figa del mondo alla domanda più bella che ti vorresti che ti facessero senza che nessuno te l'abbia fatta. E poi arrivano i commenti, i mi piace, tutte quelle cose lì. E ragion per cui, trovandosi in una situazione del genere, io ho pensato che, non avendo più nemmeno molto senso questa cosa qui, avesse magari senso dare voce a chi voce, tutto sommato, insomma, non ce l'ha, o meglio ce l'ha, ma la impiega per descrivere il lavoro conto terzi. In questo modo mi sono assicurato intanto che chi mi facesse l'intervista, o meglio chi si sottoponesse all'intervista, avesse ascoltato il disco un po' come si deve. Perché comunque io interrogo, nel senso che cioè, appunto, se uno nella recensione scrive, non so, appunto, suoni mai così intensi e colorati, colorati, gli chiedo, sì, cosa intendevi con, appunto, suoni mai così intensi e colorati? Questo ha detto Federico Guglielmi, cioè, sul mucchio. Nel senso, e gli chiedo in che pezzo, quali sono i suoni? Questo non è che può dire una cosa tanto, no, per deve dire proprio. Infatti io lo dicevo sempre quando ci si metteva d'accordo per l'intervista, dicevo sempre, facciamo l'intervista quel giorno lì, all'ora tot, cioè sii pronto perché interrogo. E infatti capitava delle volte, non so, e poi facevo domande relative al disco. Quindi se tu vieni a rispondere a un'intervista alla rovescia devi presentarti preparato, altrimenti la figura babiona la fai tu. Certo. Fai tu poi. E poi calcolavo anche il fatto che nessuno intervista mai gli intervistatori, magari questi hanno anche voglia di esprimersi. Non sempre. No, non sempre, però a volte, ad esempio, sono nella... quando si trovano giustamente nel loro ruolo, che è quello magari di, appunto, editorialisti di un giornale musicale importante, devono parlare, non dico che non possano dire certe cose, però devono anche tener conto del ruolo che hanno. Quando sono intervistati un po' fuori dai denti, possono magari lasciarsi andare un po' di più, e quindi possono dire cose magari anche più interessanti del solito, o che possono creare, appunto, spunti interessanti. Finora è successo in qualche occasione, in qualcuna no, ma dopo poi, insomma, il gioco è quello, poi certo, come riesca alla fine dipende da tutti, ecco. E forse è anche per quello che poi all'interno del tuo ultimo lavoro, Togliamoci il pensiero, hai inserito una canzone che si intitola Il nemico. No, il nemico non cioè, in realtà il nemico è un discorso molto lato, anche se tutti quanti pensano che il nemico sia Berlusconi, quando ho inserito questa canzone qua, perché almeno mi capita regolarmente. Tant'è vero che a forza di gente che mi chiedeva, ma il nemico è Berlusconi, a parte che sta in metrica, il nemico, Berlusconi, quindi visto che viene sempre detto il mio nemico nella canzone, ci stava benissimo Berlusconi, nel senso che ci sta in metrica. Però in realtà, non è confermato che lo sia, quindi. No, nel senso, cioè non è confermato che lo sia, perché siamo in par condicio, stiamo attenti. Ah, ok, no, ma tranquillo, nel senso che quello che volevo dire io in realtà non era... quando parlo del mio nemico, quello che chiamo il mio nemico, in realtà dalla canzone poi adesso dopo la facciamo sentire, si capirà, non è tanto una critica al mio nemico, quanto una critica a chi di quel nemico ha bisogno, tutto sommato. Se vogliamo fare un paragone, appunto, con, insomma, abbiamo detto Berlusconi 100 volte, dobbiamo dire 100 volte Bersani adesso. Bene. Com'è che funziona? Bersani. Boh, così, no? Bene, okay. Okay. Dobbiamo dire anche tutti gli altri 100 volte, sono 189 liste, quante sono? Sì, non importa. Finiamo domattina. Finiamoci qua, sì. Nel senso, penso magari a un personaggio come, non so, Michele Santoro. Il giorno che Berlusconi non c'è più, che cosa fa? È vero, se lo stanno chiedendo molti, ma tanti comici senza Berlusconi, no, a parte, sì, no, però quello non è un comico, un comico trova un altro, sì, però ci sono, diciamo, determinate categorie, e in generale penso che comunque, allo stesso tempo, non so, chi vota a destra, certo. Chi vota a destra senza la contrapposizione della sinistra, che magari fa qualche cosa così che a lui non piace, al bar non sa cosa dire, perché nel senso, lui vota il partito che vota, ma gli mancano completamente gli argomenti. Questa cosa è sia a destra che a sinistra, e quando c'è questa aggregazione, no, che viene fondata sulla base di un nemico comune, in realtà alla fin fine resta poco, perché quando il nemico scompare, scompari tu. E la satira era proprio su quello, ecco. Poi dopo, visto che tutti parlavano di Berlusconi, io quando ho messo un video su YouTube ci ho messo delle immagini solo di Berlusconi, così ridono tutti, eccetera. Però in realtà l'obiettivo non era criticare un uomo politico in particolare, quanto sempre questa voglia di antagonismo a tutti i costi, che è poco costruttiva. Allora ce l'ascoltiamo? Alla grande. Il nemico. Era cattivo il mio nemico, quando diceva che con lui si stava bene e che non ci mancava niente. Com'era falso il mio nemico, a sostenere che ciò che rivendicavo in fondo non era importante. Com'era goffo il mio nemico, ogni contesto o situazione ti pareva che lui fosse fuori posto. Com'era brutto il mio nemico, tutto rifatto e per di più rifatto male, incancrenito dalla bile. Come lo odiavo il mio nemico, avevo chiara la sua immagine, i miei occhi erano come un mirino. Oggi non ci vedo più tanto, che sia un problema di idiotria questo mio stare sulle mie in mezzo al casino. Te lo ricordi tu il nemico, le litigate che abbiamo fatto su come toglierlo dai piedi ed esser certi che non ci fosse più un nemico, tanto che arrivasse la noia ad impedirci di tenere gli occhi aperti. Ti troveresti tu un nemico, non so che cosa sia successo, so soltanto che ne sento un gran bisogno. Vorrei un nemico da sogno, meglio da incubo, qualcosa che mi svegli dai miei inutili sbadigli. Da solo non so che pensare, mi sento come una bilancia con il peso solamente da una parte. Non riesco proprio a stare senza, portatemi un nemico subito, scusate, però avrei una certa urgenza. Come mi manca il mio nemico, la sua parlata strafottente e quelle cose che può dire solo uno scemo. Com'era bello il mio nemico, la faccia di chi riesce a farsi voler male in modo così naturale. Il mio nemico aveva tutto, aveva stile, portamento e dallo scontro si mostrava sempre pronto. Così ogni tanto lo rimpianto, a che bei tempi quelli lì, non ne fa mica più di nemici così. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Giancarlo Frigeri, per presentarci questo lavoro Togliamoci il pensiero, è qui con noi in questa serata, lo sarà fino alle 22.30. Abbiamo ascoltato il pezzo che si intitola Il nemico, già c'è stato un cappello simpatico riguardo a questo Il nemico si fa sentire molto l'ironia di questa esistenza o di questa mancanza del nemico che forse non è più il nemico di una volta, come dicevamo tu. Nella nostalgia, appunto, sì. Vedi, anche i nemici non sono più quelli di una volta. E poi il nemico, forse c'è bisogno di avere un nemico, però il nemico è anche se stesso, con tutti i difetti, con tutte le cose che si vorrebbero combattere della propria personalità, in un certo senso. Questa è una chiave di lettura alla quale onestamente non avevo pensato, però potrebbe essere benissimo. Benissimo, allora mi fa molto piacere che ci sia anche questa nuova considerazione sul tema del nemico. Allora, queste 9 canzoni, abbiamo ascoltato folk, abbiamo ascoltato rock, funky, e in questo caso c'era un tema molto messicano con le trombe e con le nacchere. Io avrei voluto essere lì con voi a suonare le nacchere. In realtà, anche se non lo so fare. Le nacchere è stata un'idea. Cioè, io sono arrivato in studio. Sì. Io ho lasciato lo studio dicendo ok, il pezzo è finito. Poi sono tornato durante i missaggi e c'erano le nacchere. È un colpo di genio del grandissimo Andrea Rovacchi, del quale parlavamo. Sì, citiamo cosa ha fatto Andrea Rovacchi, cosa ha partecipato. Ma Andrea Rovacchi è il tastierista di Julie Sercat, nonché l'uomo che è dietro al mixer in tutti i miei dischi finora, e ha lo studio a 300 metri da casa mia, quindi è molto comodo. Inizialmente era quello il motivo per il quale era stato scelto, poi no, scherzi a parte, è veramente molto bravo. E insomma ha prodotto tante cose anche italiane e non, e di recente appunto ha avuto anche l'onore di essere menzionato nell'ultimo album Bang di Patti Smith, perché ha registrato alcune cose con Patti Smith per il nuovo disco. E cosa ha fatto quando è venuto a trovarti? Mentre stavamo registrando lui è arrivato con una delle primissime copie di Bang che lui ha avuto ovviamente in anteprima dalla signora Smith, e appunto è arrivato con questa copia di Bang gigantesca facendomi vedere subito il libretto. Poi così accidentalmente gli finiva il dito facendomi vedere il suo nome dicendo guarda qua, e insomma capisco che se ne vantasse, sono soddisfazioni, grandi soddisfazioni, per Patti Smith è un grandissimo artista, è eccezionale. Musicalmente questo è un pezzo molto vivace, gaberiano in alcuni momenti, cosa dici? Sì, leggermente senso positivo, eh. No, ma per me nominare Gaber e Luporini io accetto, perché insomma si sente, penso, l'influenza, cioè che so il loro repertorio praticamente a memoria, penso si senta benissimo. È una bella cosa, assolutamente. Sì. D'altra cosa c'è stato un tributo a Gaber, seguitissimo su Rai 3, quindi... Ho sentito. E tra l'altro c'era Patti Smith, quindi per quello abbiamo citato Patti Smith. Esatto, me ne parlavi prima. Io non ho la televisione dal 2008. Da 4 anni, sì. Esatto, come le Olimpiadi. E che scelta è non avere la televisione, Giancarlo? È una scelta che io raccomando a chiunque, ma non tanto per sembrare più intelligenti, quanto insomma... E non avere la televisione in realtà è molto bello, è molto bello, proprio per parafrasare Giorgio Gaber, riuscire a trattare la televisione come un altro elettrodomestico, come una lavastoviglie, lui diceva. In realtà io ad esempio non ci riuscivo a trattare la televisione, e non ci riesco tutt'oggi a trattare la televisione come una lavastoviglie. Se c'è la televisione la accendo, se la accendo la guardo, cattura la mia attenzione e io mi fermo lì. E nel momento in cui tu decidi di privarti della televisione, ti cambia la vita davvero, proprio perché è come la dipendenza ad una droga, secondo me. Cioè il fatto di proprio dover ricominciare a riconsiderare il tuo tempo. E poi pian piano scopri tante cose che puoi fare, perché ad esempio puoi ascoltare la radio. Ascoltare la radio è un vantaggio. Quando dicono troppe cavolate, tu in realtà... l'ascolti la radio, ma intanto fai altro. Vero. E quindi la tua attenzione si sposta su qualcos'altro, ma cioè fai molto in fretta a cambiare la tua attenzione. E se ti invitano in qualche programma televisivo, cosa gli rispondi? Onestamente non lo so, non è accaduto. Però magari ci vado, tanto non è un problema, ecco. Cioè, io non guardo la televisione non perché la televisione è perché da quando non guardo la televisione sto meglio. È stata una scelta che abbiamo fatto io e mia moglie in viaggio di nozze, perché in viaggio di nozze non c'era la televisione dove eravamo andati, e abbiamo detto è tanto che lo diciamo che la televisione, quando torniamo a casa proviamo a stare senza, e siamo partiti restando senza. E poi ci siamo resi conto di tante cose e ti cambia veramente l'occhio sul mondo. Intanto perché scopri di come le persone parlino di un argomento quando viene affrontato in televisione e di come le persone di colpo da un pomeriggio, tipo non so, senza un segnale predefinito, però tutte parlano di una cosa per 10 giorni, faccio per dire, parlano del... non so, del fiscal cliff e di Obama per 10 giorni, poi a un certo punto un martedì dalle 2 in avanti incominciano tutti a parlare della, non so, dite un argomento a caso, non so, della Juventus, ecco, appunto, che ruba gli scudetti, non so, cito a caso, non mi interessa il calcio, e c'è questa cosa qui e parlano tutti più o meno parliamo tutti usando più o meno le stesse parole, che sono le parole che la televisione ci mette in bocca. E allora scopri veramente, vedi queste ondate migratorie di pensiero, che di pensiero molto debole, che ti fanno molto riflettere. E allo stesso tempo scopri la bellissima utilità del non sapere di cosa si stia parlando tante volte. Tipo, io ho visto Belen, questa ragazza bellissima, l'avrò vista 3-4 volte su, non so, giornali o cose del genere, in tot anni che sì, in giro. Televisione c'è tutti perché, i giorni. Immagino, però io non avendola, cioè nel senso non ti scivolano addosso queste cose, non ne senti parlare, oppure ne senti parlare ma non ti interessano, e vivi veramente sapendo quello che vuoi sapere. Tanto delle cose che... perché una delle cose che ti chiedono di più è ma senza televisione come fai ad informarti? Al che io in genere chiedo, non so, il nome del ministro dell'agricoltura. Quando mi dicono così, ma come fai a informarti? Come si chiama il ministro dell'agricoltura? E il tipo rimane lì così perché non lo sa. Sa la Fornero perché ha pianto. Sì, è vero. Cioè, nel senso, non è, sì, hai capito? È vero, perché ha pianto. Esatto. Ma di cosa è ministro la Fornero? Non lo so, però ha pianto. Ha pianto. Cioè, hai capito? E allora, se la televisione ti serve per sapere che una ha pianto, e beh, vabbè. Non serve, allora, non serve. Non, cioè, serve accenderla. Torniamo a parlare della musica. Sì, di, scusa, di, mi, sono, di mi faccio prendere. Sì, sì, sì, perché allora abbiamo ancora 24 minuti per ascoltare, e sono tanti, per ascoltare ancora qualcosa, togliamoci il pensiero. Questa volta dal vivo ci fai ascoltare Grappoli, Giancarlo. Perfetto. Parlo il vino, il padre della sposa stizzito se ne andò sul divano di là. E allora parlo il vino, e qualche idiota insolente disse che quella era la verità. Quando parlo il vino, forse fu lui a far tagliare cravatte e a far dire di no. Quando parlo il vino, urlò. Parlo il vino, qualche cuore assassino fece finta di non sentire. A parlare fu il vino, ma una bottiglia straniera sa bene come non farsi capire. Quel che disse il vino non lo suggerì il pane, forse lo fecero altri, non so. Io ascoltavo il vino che 13 apostoli e mezzo e un giardino di zuccheri dove si impiccò. Un giorno metteremo una bandiera al bancone per ogni caduto, per ogni pensiero rinchiuso in bottiglia che abbiamo taciuto. E con la sabbia costruiremo un altare all'antica saggezza popolare, perché il vino fa sangue, il vino fa bene, il vino fa cantare. E allora parlo il vino, e in quell'oscuro silenzio ogni vendetta si consumò. Tu mi stavi vicino, ma se eri tu l'idea che avevo di te, non te lo dirò. L'amore va in cantina, e se migliora o se diventerà aceto un giorno, lo scoprirò. Sarà una bianca mattina. Butterò i dubbi in un bicchiere di vino e mi libererò. Blue Time Live. Blue Time. Live. Delicatissima ballata folk, quella che abbiamo ascoltato con Giancarlo Frigeri, si intitola Grappoli, fa parte dell'ultimo lavoro di Giancarlo Frigeri, appunto, che si intitola Togliamoci il pensiero. Allora, c'è questa frase all'inizio e poi sempre in mezzo alle canzoni, questo parlò il vino, che è un po' la storia di una dipendenza, e tramite questa dipendenza a volte il tutto può finire male se non si gestisce bene il tutto. In realtà non, cioè almeno, o meglio, probabilmente anche la storia di una dipendenza, però era più immaginato come un affresco a una situazione, a un rituale che nella fattispecie sembra essere un matrimonio, perché c'è il padre della sposa. E poi c'è appunto un'occasione, appunto, come quella di un matrimonio, nella quale si beve parecchio, perché insomma in genere sono cose nelle quali c'è questa atmosfera gioiosa e si beve parecchio, e a un certo punto a parlare il vino, e quando parla il vino dice delle cose sconvenienti. C'è poi la sincerità che va oltre in questo caso, no? Sì, quando parla il vino. E poi appunto cioè anche lì il discorso della sincerità è tutto da verificare, nel senso che delle volte non è poi proprio la sincerità, magari può essere, non so, il veleno, la rabbia, la voglia di vendetta o qualche sentimento non tanto positivo. Tant'è vero c'è che appunto chi dice, c'è chi dice, no, lo dico io, l'ho scritta io, comunque vabbè, lasciamo perdere. Sì. Nel senso, la canzone dice a un certo punto che qualche idiota insolente disse che quella era la verità, nel senso che ci dice appunto in genere in vino veritas, però non è poi sempre vero che magari quando parla il vino dica la verità, delle volte dice delle cose tanto per dire, o certo, comunque dice delle verità scomode. Qui c'è un po', la canzone dice e non dice. È bello anche quella parte dove tu, per dire la gradazione alcolica del vino, ne parli come 13 apostoli e mezzo. Perfetto, ad esempio, meno male che si capisce, perché alcuni mi hanno detto: perché 13 apostoli e mezzo? Gli apostoli sono 12 e vabbè, insomma. Sì, esiste anche molto vino a 12 gradi, però ho voluto appunto fare questa cosa qui per far risaltare questo, che fosse la gradazione. Questo era un buon rosso, a quanto pare. Sì, era, non so, un Cannonau. Non lo so, però per dire. Sì, questo può essere collegato ai sonnambuli come atmosfere. Io potrei immaginarlo come un pezzo che tu hai lasciato fuori da sonnambuli, che hai voluto mettere qua. No, è uno degli ultimi addirittura scritti di questo disco. Ah, perfetto. Quindi, ecco, quindi è un'ipotesi assolutamente non degna di dimensione. Vabbè, in linea di massima ti dico, comunque non è che, avendo fatto 4 album in 4 anni, alla fine insomma i territori si esplorano, anche territori diversi, ma la nazione è sempre quella. Certo, questo era un altro candidato ad essere eseguito per un mese dalla nostra emittente, perché io ad Alberto ci piacciono molto le tue ballate, hai una caratteristica, sei deliziosamente interessante quando, anche negli altri pezzi, ma nel ballate ancora di più, secondo noi. Perfetto, faccio più ballate, lo prendo, ecco, via, mi metto domani, da domani sotto, via. Va bene, però devi fare, oltre le ballate, qualche pezzo che assomiglia a questo che andiamo ad ascoltare adesso. Vediamo. Si intitola L'altra. Ula. Live Blue Time. Blue Time Live. Palle sui detriti del tuo amore. prometto non la rivedrò, anche se lo so che sempre schiavo suo sarò. Quando arriva l'altra, chissà da dove è uscita, mi chiedo dove fosse quando ti ho conosciuta, imboscata bene nella mia fiducia, la tenevi in borsa in un bottone di camicia, e ora che difese non ne ho più, resto ad aspettare che ritorni ad essere tu. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Tutt'altra atmosfera quella che abbiamo ascoltato ora rispetto al Grappoli di prima, quindi un'atmosfera assolutamente hardcore, rock molto potente, rock elettronico. Si quasi pesta forte, insomma. Qui si pesta forte, esattamente, soprattutto nella parte finale dove c'è una voce che sostituisce la tua, quella di dell'altro. Dell'altro. Visto che, no, è la prima volta che c'è una voce che non è la mia. Sì. Cioè almeno come voce solista, si chiama Riccardo Bregoli, è un ragazzo a 23-24 anni, canta in un gruppo di Finale Miglia che si chiama Red Line Season, fanno un casino infernale, assomigliano molto agli Head Driving e lui ha questa voce assolutamente potente e ci tenevo molto a fare questo finale con una voce che sembrasse di, un, di una persona uscita di testa. Sì, sì, da molto senso. Pensa che l'ha fatto di mattina, tipo Bene. Erano le 9:30 di mattina. Lui non era stato a letto per tutta la notte. No, era, perché poi è un ragazzo amabilissimo in realtà, solo che appunto a questa... Quando esce Mr. Hyde caccia queste urla clamorose. Ma le sue performance sono così dal vivo? Sì, no, lui urla veramente come un ossesso. Il suo gruppo fa queste cose molto, insomma, si chiamano Matt Rock, queste cose con molti stacchi. A me ricordano un po' gli Head Driving del, insomma, periodo 99-2000. Uh-huh. E lui urla come un pazzo. Ed è, insomma... Avendolo conosciuto dal vivo, l'ho conosciuto dal vivo perché era venuto a vedere un mio concerto e gli era piaciuta la cosa, io sono andato a vedere il suo gruppo, io pensavo che lui facesse cose molto più calme, essendo gli piaciuto molto il mio concerto, e lui è partito con questo assalto sonoro, e devo dire che a me piacciono molto quelle cose di fra l'altro, quindi insomma c'è stata una certa stima reciproca, e quando si è trattato di questo pezzo qui che bisognava toccare vette alle quali io non arrivo, ho pensato... Hai lasciato il testimone a lui? Sì, assolutamente. Poi ci sono anche altre cose, tipo la fase centrale di questo pezzo è molto interessante. Con i clacson, ci fantastici. Sono i clacson, esatto. Sì, sembra proprio un'atmosfera di fuga totale, di fuga trovandosi in coda. Sì, no, ma in realtà, allora, nel senso, i clacson non è un campionamento, in realtà quella dei clacson è una parte definita, e è un quartetto di clacson, nel senso che adesso non mi ricordo le cilindrate delle macchine e i modelli, so che c'era una Panda e poi, insomma, il resto non lo ricordo, comunque c'erano quattro clacsonatori con io che dirigevo la cosa proprio a mo' di novello Herbert von Karajan e abbiamo inciso due piste con due parti definite di clacson e poi abbiamo appunto registrato queste parti di clacson qua. Su YouTube c'è un filmato che fa che il insomma fa vedere la realizzazione. Se scrivete Giancarlo Frigeri togliamoci il pensiero su YouTube escono due cose, uno è un video della canzone togliamoci il pensiero, l'altra è un video di Cesare Anceschi che fa vedere appunto la realizzazione del disco e si vede anche nel finale di questo video qui tutta la preparazione dei clacson, perché abbiamo appunto preso quattro macchine, buttate le smontate, macchine smontate, sì. No, portate le macchine dentro nell'androne adiacente allo studio, chiuso la porta, portate fuori le cuffie, i microfoni, microfonato, fatto le prove, assegnato le parti ai vari clacson e poi ci sono io che dirigo proprio ed è una scena un po' surreale. Fantastico. No, non è una cosa fatta a caso, è studiato. No, immaginiamo. Ok, allora andiamo con curiosità a vedersi questo lavoro di clacson di Giancarlo Frigeri con i suoi collaboratori. Salutiamo anche Cesare, visto che è stato anche nostro ospite. Allora, ancora spazio live, questa volta ridimensioniamo il tutto e parliamo con i criceti in questo caso. Esatto, una canzone che parla del mondo del lavoro, che è un po' una mia fissa, ce n'è quasi una in ogni mio disco. Benissimo. E in questo caso criceti, direi criceti. Che non si debba spiegare nient'altro. No. Che adesso ha gli occhi stanchi e delle ossa non ne parlo per rispetto alla fatica e ritrova a casa dopo una giornata giù al consorzio il calore di due figli e di un divorzio, perché certo un turno intero a raccogliere le pere, scaricarlo sui bambini non è cosa. Quindi pizze appena comprate, tutte quante margherite, che la roba l'aggiungiamo poi a casa. Per addormentare un uomo non c'è metodo migliore che farlo lavorare ogni giorno le 9 o 10 ore. C'è chi ha speso le sue notti in progetti senza senso e ora paga il suo sognare ad occhi aperti. Tra bonifici e cambiali della sua piccola impresa, un azzardo che col tempo è stato assurdo. Quando pranza va di corsa, piano che la moglie dorme, gli orari loro mica sono uguali. E rimpiange ancora il giorno quando l'ha lasciata incinta, incastrato dentro ad una vita finta. Perché per domare un uomo non c'è metodo migliore che farlo lavorare ogni giorno sulle 9 o 10 ore. Insieme ai suoi colleghi ora è già in pausa a caffè e occhi a mandorla sta entrando nell'azienda. Sguardo giovane un silenzio che a star zitto ha detto tutto e a guardarlo bene fa anche un certo effetto. Tra risate trattenute e con gesti un po' volgari fanno branco e lo prendono per scemo. Però lui non si scompone, resta fermo e in fondo pensa, tra qualche anno riderete meno. per terrorizzare un uomo non c'è metodo migliore che farlo lavorare ogni giorno sulle 9 o 10 ore. E c'è chi sono 40 anni che la sola sua mansione fare buchi con un trapano radiale e di tagli nelle mani e la puzza di lamiera te li tiri dietro una vita intera. Quando ti congedi dopo un'esistenza di lavoro, 4 pacche sulle spalle, forse un orologio d'oro per guardare il tempo che ora non passerà mai. Era merda, però la rimpiangerai. Per confondere un uomo non c'è metodo migliore. Farlo lavorare ogni giorno sulle 9 o 10 ore. Siamo ascoltati questa canzone intitolata Criceti, a cantarla è Giancarlo Frigeri, è venuto a trovarci per raccontarci qualcosa del suo ultimo lavoro. Togliamoci il pensiero, questa Criceti, un pezzo ascoltato da disco molto molto intima, con un'atmosfera rarefatta, per raccontare quello che è l'uomo nel mondo del lavoro, così come i criceti in gabbia che fanno sempre la stessa cosa ripetuta nel tempo. Anche se non è vero che è ripetita Juvent a volte. No, esatto, a volte no. Ripetita porta a casa stipendium, ma... Sì. Perfetto. Maurizio? Sì, un bel pugno allo stomaco per finire, chiaramente. Hai voluto dare un certo tocco, far pensare la gente, giustamente. Ma io non lo so, nel senso, a me tanti hanno detto che questo è un pezzo cinico. No, cinico, ma... Secondo me è la cruda realtà. Cioè, nel senso, è cruda perché è cruda, perché non l'abbiamo cotta, però ecco, diciamo che la realtà com'è. Ecco, preso quindi... da internet, un commento di qualcuno diceva ironia e tagliente lucidità. In questa canzone, quindi ci sta. Non sono parole nostre, magari su internet troverai sicuramente chi ne ha scritto così e okay, condividiamo il messaggio. Abbiamo ancora citato i musicisti che sì, abbiamo ancora citato i musicisti che sono tanti e me ne dimenticherò sicuramente qualcuno. Ragion per cui cito a caso, nel senso che cito Cesare Anceschi alla batteria in tutto l'album e in tutti i miei dischi, o quasi. Poi abbiamo Andrea Rovacchi che abbiamo citato prima, qui e là, quello che capita, eccetera, eccetera. Alle trombe nel Nemico c'era Enrico Pasini, che ha suonato anche con i Giardini di Miro, e insomma è un trombettiere non male, nonché un eccellente esterno sinistro a baseball. E poi abbiamo Riccardo Regoli, che l'abbiamo citato, Federico Barbieri, pianoforte in Togliamoci il pensiero, non l'avete sentita perché ho suonato io questa sera, e in Senza Canditi suona l'organo, non la sentiamo perché non la sentiremo, quindi... Federico Barbieri esce malissimo da questa serata nonostante abbia suonato il disco. E poi aiuto, me ne sto dimenticando. C'è sicuramente Guido Alessandro Bocchi, Giulio Alessandro Bocchi, sì, al fagotto, sì. in Grappoli, l'unico sì. musicista pagato per aver suonato il disco, perché non lo conoscevo, veniva da Parma, avevo bisogno di un fagottista, e, insomma, quindi l'hai pagato. Sì, non è facile trovare. E poi Max Marmiroli, e poi il grande Max Marmiroli, stavo dimenticando lui, che ha suonato. Max Marmiroli ero lì, non so se vi ricordate voi sicuramente i Rocking Chairs. Sì, come no. Certo. Lui era il sassofonista, nonché il produttore grandissimo gruppo di Rocking Chairs. Sì, che dopo sono diventati la band di Ligabue. Esattamente. Esatto, e Max Barbirolli era il sassofono dei Rocking Chairs e suona con me spesso, fra l'altro suonerà con me anche in live l'8 di febbraio dalle mie parti. Benissimo, allora abbiamo quasi concluso con la trasmissione, abbiamo capito molto di queste 9 tracce di Giancarlo Frigeri, togliamoci il pensiero, si intitola questo lavoro, ricordiamo brevemente Giancarlo come fare per entrare in possesso del disco. Direi che il modo più facile sia andare su miomarito.it, che nonostante appunto la cosa faccia ridere è realmente il mio blog, e lì ci sono le istruzioni, quindi insomma tanto per farla breve, per non stare 4 ore a parlare. Benissimo, ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Ti vogliamo qui anche l'anno prossimo con un altro disco. Con un altro disco non so perché di questo passo insomma, però volentieri, se riesco volentieri. Ormai ci hai abituato bene, voglio io dire. Torno molto volentieri. Bene, allora quindi diamo un brevissimo spazio anche per quello che era il tuo album dell'anno scorso, anzi citiamo il 2011, esatto. I Sonnambuli, e adesso ci ascoltiamo, anzi ce lo fai ascoltare tu dal vivo, si intitola Contro Esodo. Però prima di farlo ascoltare, magari se vuoi presentarlo brevemente e poi ci salutiamo. Ok, si parlava di lavoro prima, ci sono delle giornate nelle quali appunto si torna al lavoro, nelle vacanze. Sono giornate nelle quali io personalmente odio tutti. Insomma, i giorni in cui torni a casa e riprendi quello che chiamiamo il solito tran tran sono giornate in cui in genere insomma monta su una certa insoddisfazione. E il pezzo parla di questo. Benissimo, allora è proprio tutto. Noi ti ringraziamo ancora una volta, Giancarlo, per essere stato con noi. Buon rientro nella tua ben amata Reggio Emilia. E allora noi, Maurizio, salutiamo quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Cazzavara. Il solito grande e caloroso ciao. Vi lasciamo con Giancarlo Frigeri, questa Contro Esodo dai Sonnambuli, mentre vi ricordiamo il suo nuovo lavoro che si intitola Togliamoci il pensiero. Grazie ancora e buona serata a tutti. Fine dell'estate non ci colse di sorpresa, sapevamo che sarebbe giunto il giorno delle parole di tua madre che giù al mare aveva visto scomparire tutti i mali. Adesso invece ritornava a lamentarsi delle vene varicose e delle ossa screcchiolanti in continuazione. E le canzoni dell'estate tra le nuvole d'autunno risuonavano patetiche e noiose. La fine dell'estate, in quei 3 giorni in cui a casa non c'è mai nessuno, è meravigliosa. Poi ritorna il traffico, il casino, adesso francamente hai capito che sei tu che odi la gente. Tutti quei ragionamenti che in agosto tolleravi perché rivestiti dentro abiti nuovi, ora tornano a saltarti al collo come bracconieri che sanno che la faranno franca. La fine dell'estate aveva già quell'odore di salsicce, di festa dell'unità. Fila al ristorante, giro in libreria, fare un bel pieno di idee da fare i figli. Questo inverno in birreria, puoi guardare i volontari, sempre quelli, i concessionari d'auto, qualche orchestra un po' in affanno, con il comico di turno a far battute sul governo, dal cui capo prende i soldi tutto l'anno. È la fine, questa è la fine. Questo nostro andar sonnambuli per casa è la fine, è la fine per davvero. Questa volta non lo reggo un anno intero. ricomincia a interessarci il titolone di giornale su argomenti di cui non capiamo niente, ed il valzer di opinioni dentro ai bar tra caffè, brioche in piedi ed un perdio, mi scusi, c'ero prima io, mentre gli stranieri di cui sparli, zitti a lavorare, sono tutti alzati almeno da due ore. E a guardar la nostra decadenza già ci cominciamo a chiedere se è vero che si può far senza. E guarda questi 5 chili che mi tocca buttar giù. Io domani vado a iscrivermi in palestra ai latinoamericani, yoga, reiki, karate, il corso d'inglese o da sommelier. Lo psicologo che dice attento allo stress da rientro, come se non succedesse tutti gli anni. Lo scoprirsi senza senso, ben sapendo che esser finto in fondo sia il nostro non renderci conto che è la fine. Questa è la fine. Questo nostro andar sonnambuli per strada è la fine. Io non ce la posso fare, se alla fine tutto quel che resta è di ricominciare.